Radio Stonata, ma da quest'anno ve l'ho detto in apertura di trasmissione, non è solo Radio Stonata ma è anche Radio Eco Sud in FM per il sud della Calabria, e quindi ci potete ascoltare anche in FM dalla vostra macchina, ma vi ricordo ci potete ascoltare anche dal vostro smartphone, dal PC, da tutte le applicazioni, con appunto l'applicazione per Apple e per Android di Radio Stonata. Sono felicissimo perché sono riuscito a contattare il nostro ospite di questa sera. Con lui parliamo appunto di Perù, ma innanzitutto diamo il benvenuto e il buonasera a Luigi Lanzaroni. Ciao Luigi, buonasera e ben ritrovato. Grazie, buonasera anche a te e a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Che sono in tantissimi, te l'assicuro Luigi. E, fuori onda con Luigi stavamo scherzando, chiacchierando più o meno, va bene? Cancelliamo tutto o salviamo un terzo del viaggio? Io ho votato per salvare un terzo del viaggio, sono partito da solo, quindi questa è l'origine di questo viaggio. Ore di volo, cioè, come è stato? Raccontaci un po'. Ci vuole tanto, dipende, diciamo che... Tu come hai fatto, Luigi? Io sono andato, questa volta ho fatto Milano, credo Milano-Madrid, Madrid-Lima, poi a Lima ho dormito, va bene, poi da Lima ho preso un autobus, sono autobus molto ben organizzati per la verità, e sono andato il primo giorno, il primo tratto è stato fino alle Islas Ballestas, che è dove si va a vedere poi le isole, le chiamano le isole Humboldt dei poveri, se vuoi, perché sono ricchissime di avifauna, di uccelli. Poi il giorno dopo da capo l'autobus e sono andato fino all'Alaska, dove poi appunto ho visto le linee e così via. Ma, diciamo che poi diciamo che poi perché così mi tengo la domanda in caldo. Diciamo che quello che ho organizzato è quello che chiamano i peruviani chiamano il gringo trail, nel senso che è il giro classico turistico che viene fatto in Perù, che prevede appunto queste due tappe, poi Arequipa, poi il lago Titicaca, poi il Cusco e poi il ritorno. Io in realtà ho saltato il Titicaca perché appunto volevo andare in Amazzonia, ma poi sono andato, insomma, l'ho fatto un po' più corto, però questo è il giro fatto. E parlaci un po' appunto di queste linee di Nazca. Nazca, se scrive con la Z o con la C, dipende da dove vai a leggere. Io ho visto che in Perù usano con la C, con la S, scusa, non con la Z, però insomma si pronuncia Nazca, pronunciano come vuoi, è giusto. Beh, sono uno dei, come dire, uno dei misteri della Terra, nel senso che ci sono queste linee lunghissime, poi disegni di animali, fatti nel deserto assoluto, non c'è proprio niente. Il problema è che sono visibili solo dall'alto, dal basso non si vede niente, per cui questo ha dato adito a tutti quelli che parlano, che hanno scritto, anch'io ho letto tantissimo, di UFO, hanno portato ovviamente a dire solo chi aveva qualcosa con cui potesse volare poteva fare queste linee. Invece insomma è provato che non è così, è stato fatto dagli abitanti di lì qualche millennio fa, in maniera che uno continua a non capire esattamente come hanno fatto, però nella realtà è stato male, mi sembra, no? Se non ricordo male delle foto. Sì. Però ci sono anche geometri dal giorno d'oggi che tirano le righe, fanno le strade senza volare, insomma. Sì, però hanno delle grandi strumentazioni che utilizzano. Sì. Beh, ma credo che anche i romani, senza avere grandi strumentazioni, facevano quel che hanno fatto. No, si può fare. Qualche meraviglia, cioè tu hai un disegno di base, hai delle misure, poi con fili, pali, eccetera, riesci a farlo, insomma, dimostra che non l'hanno fatto. È assolutamente incredibile il fatto appunto che tu poi il risultato non lo vedi dal basso. Sei sicuro di aver fatto un qualcosa o speri di aver fatto qualcosa che nessuno ha visto, se non poi negli ultimi 100 anni, meno 50 anni, solo noi l'abbiamo visto. E poi sono fatti quello che magari non si sa, non sono disegni scavati sul terreno. E diciamo che il deserto prende tutta una patina o grigiastra o brunastra col passare dei millenni. lì basta spostare un sasso, tiri via il sasso e sotto c'è una parte, c'è un terreno più chiaro. Quindi tutti questi disegni qui sono stati fatti spostando semplicemente dei sassi, del terreno, senza scavare, spostando di lato viene fuori la linea bianca. Quindi non è un non hanno usato un trattore o vangato, hanno semplicemente spostato dei sassi, e questo è il risultato però stupefacente. Così io ho volato con un aeroplanino a 5 posti, ma praticamente nuovo, assolutamente nuovo, senza nessun problema. Sono stato anche fortunato che era una giornata di pieno sole, senza aria, no? Per cui non si è ballato né niente, però non ci sono stati assolutamente problemi, e secondo me se non li vedi dall'alto ti perdi il 95% del valore di queste linee, chiaramente, li puoi vedere sempre in foto, ma insomma vedere dal vero è tutta un'altra roba. Comunque, detto questo, è finita la mattinata, anzi prima che finisse la mattinata mi sono trovato un momentino impreparato, come ho scritto, perché in effetti pensavo di impiegare più tempo a vedere queste linee, per cui chi mi ospitava nel bed and breakfast, molto bello tra l'altro, normalmente non do indicazioni su dove sono stato, anche perché ognuno se ne può trovare le cose senza nessun problema oggi come oggi in internet, però siccome questo mi è piaciuto particolarmente ho messo il link sull'articolo. E morale, Remy, che è un, come scrivo, è un olandese che ha sposato una peruviana e si è stabilito lì, è andato in piedi questo bed and breakfast, mi ha fatto il programma che prevedeva appunto andare a vedere il museo Antonini e poi due visite al pomeriggio in due posti che poi rimite vediamo. Allora, il museo è molto, molto carino, è piccolo, ma è molto ben fatto, molto ben tenuto. E come dicevo, ci sono tantissimi pezzettini di tessuti, perché diciamo che il Perù antico è famoso dal punto di vista archeologico per i tessuti e i vasi, io vedo sostanzialmente, e lì ce ne sono tanti in effetti. Poi però sai, tu guardi, leggi, dopo un po' la cosa che mi è rimasta più impressa ovviamente sono stati quei teschi di cui ho messo alcune foto, con foro in mezzo, a fronte, sono teste di persone sacrificate. E insomma resti un momentino lì ovviamente a guardarle, a pensarci a come poteva essere la vita qualche migliaio di anni fa in quei posti, insomma. Non so tu che idea ti sei fatto vedendo quelle foto, quella foto. No, la foto è impressionante naturalmente, ma vabbè, però sì, no, i buchi mi avevano incuriosito, però mi hai dato un'ottima spiegazione. Poi mi pare di capire che c'era pure uno splendido giardino fuori da questo museo o dentro il museo. No, nel bed and breakfast il giardino. Ah, okay. No, è davvero bello, una roba lasciata andare un po' in giro, però appunto pieno di questi animali e così, ma soprattutto ho avuto modo di parlare un'oretta con il suocero di Remy, che è peruviano, quello che chiamo il professore, ma che è un professore di storia peruviana, il quale bellamente mi ha detto che se avevo tempo poi dopo, se stavo lì il giorno dopo, mi faceva vedere casa sua. Perché anche lui ha un museo, fa tutti originali, quindi vuol dire che c'è un commercio, come è evidente, e c'è un giro di questi reperti incredibile, come penso dappertutto. Ma lui, bello tranquillo, mi fa: sono tutti originali quelli che ho io, però non ho avuto modo, cioè no, poi dovevo ripartire, per cui non l'ho visto. Però insomma, è stato molto simpatico anche parlare con lui. Perché nel pomeriggio poi ti sei trasferito per andare a vedere cosa? Sì, al pomeriggio loro organizzato, io volevo andare a vedere Cauaci, la piramide di Cauaci. Mm-hmm. E mi ha organizzato appunto Remy, mi ha trovato un tassista con un bel Mercedes nero. E questo mi fa: mi chiamo Gennaro. Io dico: come Gennaro? Mi chiamo Gennaro. E vabbè, se ti chiami Gennaro sarà così, no? Cioè, sono rimasto un po' sorpreso e patapum sulla gamba. Vabbè, andato avanti tutto il viaggio così. Comunque siamo andati a vedere questa piramide di Cauaci. E io sono morto per il caldo lì, perché c'era vento forte, ma caldo proprio da disidratarti, ti asciugava. E c'è questa piramide, però non si poteva entrare, si poteva fare quelle foto che ho fatto io dal di fuori. Si vede questa piramide, ma insomma probabilmente ero anche un po' stanco, non lo so. però fermarmi per vedere che ci sono delle ossa sparse in giro, quel vento che sibilava, il vecchietto qui ha dato il giornale che sta lì di notte, insomma, sono rimasto un momentino così, non ho apprezzato in pieno quello che poteva essere Kawachi. Ho capito. Ma poi c'era anche questa famosa piramide di cui parlavamo prima fuori onda, no? Sì, poi dopo per finire appunto mi si fa, adesso andiamo al cimitero di Chaochiga. Poi lo chiamano effettivamente, non lo chiamano il cimitero, ma ha chiamato la necropoli Chaochiga, no? Uh-huh. E niente, come attorno alla piramide di Kawachi, nel senso ci sono delle tombe, un luogo evidentemente sacro, c'erano tutte le tombe che sono state quasi tutte depredate, però insomma hanno salvato, molte tombe si sono salvate quantomeno per quanto riguarda i corpi contenuti, no? E anche lì, lì è stato un po' più tra virgolette bello, perché a Kawachi ero da solo, non c'era nessuno. Qui invece poi c'era un altro gruppo di persone che girava, per cui non mi sentivo proprio isolato. E qui la cosa adesso sembrerà ridicola, ma la cosa che mi ha colpito di più è vedere alcuni di questi scheletri, no? Con la fascia in testa, tipo davvero gli indiani di Tex Willer. Giuro, la prima cosa che ho pensato sono gli indiani di Tex Willer. Lo so che è ridicolo, ma quello è quello che mi è venuto in mente. E poi dopo, niente, diciamo che anche lì arrivava sera, le ombre lunghe, il vento... Morale è stato ritornare a casa, sono tornato, però è stato, diciamo che è stato molto interessante, questo lo volevo vedere, mi è piaciuto. Kawachi ho fatto fatica sinceramente. Uh-huh. Luigi, non so se hai altro da aggiungere, se no io ti lascio e ci risentiamo presto. E guarda, veramente interessante comunque questo viaggio, eh? Soprattutto perché io vedo spesso in TV queste immagini appunto dall'alto di NASCAR e sono veramente fantastiche, immagino vederle da vicino, cioè io guardo il tuo articolo, lo sto riguardando da quando appunto Marco me l'ha postato, e vedere queste immagini sarà stato fantastico, no? Perché la foto secondo me non rende abbastanza quanto è stato vederle da... Sì, la foto rende sicuramente, però insomma il poterle vedere dal vivo è un'altra cosa, insomma, se uno passa di lì sarebbe stupido non fermarsi a vederlo, ecco, diciamo così. Hai ragione. Se ci risentiamo, vedi tu, perché io poi scriverò altre tappe del... Sì, sicuramente Marco ti sta già prenotando per le altre tappe, quindi appena pubblicherai le altre tappe su nonsoloturisti.it appunto del tuo viaggio in Perù, noi ti avremo ospite di nuovo qui su Radio Stonata e Radio Ecosud. Che dire, Luigi, grazie e alla prossima. Grazie a te, alla prossima, ciao. Ciao Luigi, grazie. Farai nei miei confronti, asciugherò i tuoi pianti, proteggerò.